La cicogna nera. Due minuti dopo le 21, eccoci di nuovo, ci siamo come ogni giovedì alle 21 o alle 21 un quarto, dipende un po' dalla settimana in settimana. Riniziamo, vi facciamo ascoltare sulle frequenze di Radio Onda Rossa un po' di musiche del mondo, un po' di musiche del nostro globo, speriamo quelle più contaminate in futuro, quelle che siano l'evoluzione naturale della nostra musica. Vi diamo subito i contatti, il numero della diretta 0649 1750, naturalmente è aperto sempre 24 ore su 24 per qualsiasi informazione, richiesta, domanda o delucidazione. Invece c'è una mail per la nostra trasmissione, lacicognanera@ondarossa.info, anche lì potete scrivere come meglio credete. Ma iniziamo subito con la musica, riniziamo dall'area dove ci siamo lasciati la scorsa settimana, ossia la zona dell'Africa occidentale. Abbiamo ascoltato nell'ultima parte di trasmissione due culture molto forti, che è quella dei Gnawa, attraverso una grande donna e un'altra grande donna che adesso abita a Barcellona, ossia Mariem Hassan, che rappresenta invece la cultura e la musica dei Sahrawi, la gente, il popolo del Sahara, che ancora oggi si trova senza uno stato. C'è un'altra cultura lì vicina, una cultura e una musica soprattutto molto forte, è quella che ha dato l'impulso, il germe maggiore alla nascita della futura, diciamo così, a fine 800, musica nordamericana, del jazz, del blues, del gospel e tutta l'area maliana. E lo facciamo con un giovane che ha un macigno di eredità sulla testa. Il padre si chiamava Ali Farka Touré. Thank you. Cosondo, il titolo di questa canzone del nuovo album, del nuovo progetto di Viewfar Katuré, come vi abbiamo detto, il figlio di uno dei più grandi chitarristi del desert, del Sahara Blues, ossia Alifar Katuré. Comunque anche lui se la cava molto bene nella commistione tra tradizione e modernità da queste parti del mondo. Un altro grande da queste parti, un altro maliano, colui che ha il nickname di Kar Kar, colui che ha dribblato troppo nella lingua bambara, l'etnia della lingua mande, che si trova da questa parte del mondo, una regione culturale, etnica, a cavallo tra il Mali, la Costa d'Avorio, la Guinea, e Boubacar Traoré, anche lui arriva quest'anno con un nuovo progetto 2011 per Mali, The Know. Andiamo ad ascoltarlo, probabilmente l'abbiamo già passato un po' di mesi fa, questa è Mondo. Ikandanya malufune Nitaraka eba ikandenufune Nitaraka eba ikamode nufune Nitaraka eba ikandanya malufune Nitaraka eba ikamode nufune L'ultimo album di Kar Kar al secolo, Boubacar Traoré, fece un album di debutto nel 1990, Mariama, veramente penetrante, se lo riuscite a sentire. Ha delle canzoni così semplici, minimaliste, veramente molto penetranti. Ancora, andiamo avanti in questa parte dell'Africa occidentale per la puntata, sono le 21.13. Vi ricordo che siete all'ascolto della Cicogna Nera e andiamo in una tradizione che prevede, non così frequente in questo angolo del mondo, una vocalità molto molto femminile. Andiamo ad ascoltare l'album, o meglio l'EP di debutto, di tal Fatoumata Diawara, cresciuta in Costa d'Avorio ma da parenti maliani e ora da un po' di anni residente in Francia. Dovrebbe essere uscito proprio l'album di debutto in questi giorni, forse il 19 settembre, ho letto da qualche parte. Comunque noi questa sera vi passeremo la canzone che dà il titolo all'EP, Canoe o Cano, di questa Fatoumata Diawara. Andiamo ad ascoltare. Oh donna, neni jaravide kelela, oh donna. Oh donna, neni furu nyonde kelela, oh donna. Ay bangi bolola ne kana, ay bangi bolola ne kizela, ay bangi bolola ne kuna, ay bangi bolola ne nyala, ne dosu kolobe ndimina. Questo era il debutto di Fatoumata Diawara, come vi abbiamo detto, cantante a cavallo tra il Mali e la Costa d'Avorio, ma che ormai risiede in Francia, ed è una delle poche, anzi una delle più rappresentanti forti, diciamo, di vocalità femminili da queste zone e su scale pentatoniche, è quella della cultura dei Vassoulou, scritto Vassoulou, una regione all'incirca che si estende, forse un pochino minore di quella già citata prima, dei Bambara. Comunque sicuramente non è uno stato autonomo, anche se lo è dal punto di vista culturale. Siamo a cavallo tra il Mali, la Guinea, la Costa d'Avorio. Questa musica che, pensate, diversi etnomusicologisti riconoscono come colei il batterio, diciamo, che ha dato l'origine al blues nordamericano, quello dei neri degli Stati Uniti e tutte le sue forme a posteriore. Naturalmente, pensate un po', questa è proprio la musica con la chitarra e il basso che poi ha fatto sviluppare tutta la tradizione nero americana. Comunque, sempre a secondo di alcuni etnomusicologisti, naturalmente tutta quest'area dell'Africa occidentale ha avuto una espressione, una influenza forte e decisa nello sviluppo di questa musica. Andiamo avanti, passiamo dall'Africa occidentale all'Africa orientale. Abbiamo passato all'inizio dell'estate un album di un gruppo etiope, un gruppo che è venuto su, che si è fatto conoscere al mondo grazie all'interessamento di un inglese molto famoso, tal Nick Page aka Dubula. E vi avevo detto che non era all'altezza del precedente, del suo debutto del 2006. Beh, probabilmente mi ero sbagliato, perché ascoltandolo questo album, questo At This Through the Looking Glass, suona sempre più forte, più ti entra sempre più di più nelle ossa. L'album è quello dei Dub Colossus, questa formazione in cui Dubula ha avuto proprio il compito principale, quella di realizzare il progetto di portarlo qui in Occidente, quando nel 2006 si è catapultato, diciamo così, ad Addis Abeba per collaborare ed esplorare insieme alcuni musicisti di tradizione locale, azmari, di pop etiope degli anni 60, di etio jazz, di jaima, di reggae giamaicano. E allora è arrivato il momento di sentirlo. Anche questo esce quest'anno nel 2011 per la Real World. Loro sono i Dub Colossus, l'ascoltiamo con Wave Cure. Sasse bin gegen euer Löffel und Verkehr. Club Colossus, come vi dicevo, questo è il nuovo album del 2011 e siamo partiti, anzi non è che siamo partiti prima, vi dicevo, dalla cultura Vassolo, della sua musica che probabilmente alcuni attribuiscono che abbia dato il batterio seminale alla musica nero-americana, e invece da queste parti c'è stato un ritorno, probabilmente il primo ritorno per quanto riguarda specificatamente nell'ethio jazz, nel jazz, uno sdoganamento delle sue forme, della sua armonia negli anni 60. Forse sono stati ad Addis Abeba e dintorni i primi così a creare una fusione o confusione, una direzione alternativa tra il jazz e la musica popolare di queste parti. Allora, i Dub Colossus sono Mimi Zenebe, definita la Edith Piaf d'Europa, cioè la female, la vocalista femminile che risponde al nome di Zedenia Gebere Marcos. Ci sono ancora il pianista Samuel Hirga, e con il suo messengo, che è questa corda ad un violino. Tutto questo gruppo nel 2006, quando Nick Page è andato ad Addis Abeba, provava in un per alcune settimane, diciamo, in un capanno di mattoni che c'aveva il tetto in di lamiera, era situato sull'altopiano montuoso, nei pressi, insomma, nella periferia, non certo nella borghesia di Addis Abeba, e con un sottofondo di pioggia. Visto la stagione, i bambini che corrono e fanno il bucato hanno dato vita a queste registrazioni che poi Nick Page ha portato a casa in Inghilterra, precisamente nell'etichetta della Real World, che fa capo a Peter Gabriel, e gli ha proposto proprio queste musiche che così sono riuscite a essere diciamo registrato e a prendere vita in uno studio di registrazione tradizionale, e sono riuscite ad arrivare alle nostre orecchie. mezz'ora dopo le 9, ci siamo appena ascoltati Dub Colossus con questo nuovo album e, come vi abbiamo detto, veramente un progetto che più si ascolta e più piace, a differenza di quello che pensavo in precedenza. Comunque, naturalmente, melodie tradizionali di questi luoghi, cioè sia quella degli Azmari, l'Afrobeat, il jazz etiope degli anni 60, qui in questa canzone Guaragigna o Guaraghi, molto ben ascoltabile, e il dub, naturalmente, che portano anche nel loro nome, dub che è presente anche in due formazioni seminali, e rientriamo con questo nel nostro continente, a Londra, quella che vi abbiamo detto prima del suo così scopritore produttore Nick Page, che ha fondato negli anni 90 i Trans Global Underground, e di un altro gruppo che quest'anno esce con un nuovo progetto. È uno dei gruppi, diciamo così, che per primi ha saputo fondere o ha provato a miscelare l'elettronica con le sonorità del mondo, con le sonorità popolari in specifico, nello specifico soprattutto quelli che risiedono, che si estendono nell'area del subcontinente indiano, nel nord del Pakistan, e poi con ancora testi fortemente politicizzati, sfumature punk. Tutto questo sono gli Asian Dub Foundation, che non hanno bisogno naturalmente di presentazioni qui a Radio Onda Rossa. Ascoltiamo il loro ultimo album con London to Shanghai. Thank you. by the skyline from London to Shanghai. London to Shanghai, questa è l'ultima creazione degli Asian Dub Foundation. Non so quello che c'è contenuto, insomma, nei testi. Per quanto riguarda la vena creativa musicale, timbrica, mi sembra che l'abbiamo esaurita da un po', ma avete almeno sentito qui all'interno di questa composizione le tabla, che è l'elemento, diciamo così, world orientaleggiante più presente. Canzone di questo album di Susila o Susela Raman, Bell, anche questo di quest'anno, Bell Hundu è il titolo della canzone di questa British Tamil, una fusione, l'etnia di questa ragazza, metà tra naturalmente l'Inghilterra e la popolazione dei Tamil, questo gruppo etnico a cavallo del nord dell'India, della Malesia e dello Sri Lanka. Andiamo avanti ancora qui, quando sono le 21:43, stiamo ascoltando un po' di musiche del mondo, forse loro sono più antichi degli Asian Dub Foundation, che stanno sulle scene da un po' per quanto riguarda la fusione dell'elettronica con le musiche del mondo. Si chiamano i Banco de Gaia, pubblicano in questo 2011 Song from the Silk Road. Ascoltiamoci la canzone Farewell. rientriamo su questo ultimo progetto dei Banco de Gaia, un suono forse un po' superato, sicuramente le matrici sono quelle del dub, dell'ambient anche qui, ma sono stati dei prima e prima degli Asian Dub Foundation a mettere nel suono elettronico un po' di come dire, un po' di germi, un po' di samples del Medio Oriente, del mondo arabico. Questa forse è anche una raccolta, non so precisamente, di questo Banco de Gaia. Noi quando sono le 21:48 andiamo avanti con la Cicogna Nera e ce ne andiamo ad un altro progetto, ritorniamo alla Real World di Peter Gabriel e al suo famoso Nicky Dubula Page, colui che ha fondato i Trans Global Underground, colui che ci ha fatto permettere di ascoltare, che ha dato riuscito a dar vita al gruppo etiope dei Dub Colossus. E questo personaggio metà greco e metà inglese, chitarrista e bassista, ha fatto un album lo scorso anno insieme a un suonatore di Canun, tal Abdullah Chadeh, se questa è la pronuncia esatta. L'album si chiama The Road to Damascus e Damasco è stata sicuramente una delle vie della seta. guerra fredda, la sua iconografia hanno diviso l'est e l'ovest, ci dice Page. Abbiamo deciso di creare questo progetto che creasse un ponte, un collegamento tra di loro. Queste le parole per questo The Road to Damascus, album dello scorso anno della Real World, appunto questo progetto di collaborazione tra Nick Page e l'altro suonatore di Canon, tal Abdullah Chaddi. E The Road to Damascus, come abbiamo detto prima, è la via della seta. Forse non è la via della seta perché questa espressione non indica naturalmente una via, ma è un reticolo, un crogiuolo di vie diverse tra nord e sud che andavano da ovest fino all'estremo oriente e probabilmente, anzi naturalmente, passavano anche per Damasco, molto probabilmente passavano anche per il nord dell'India, per il Pakistan. E proprio da qui arriva un progetto, anche questo, che torna come dire a casa in Inghilterra, perché si chiama Dub Kappali. E il dub naturalmente l'abbiamo sentito per parecchio tempo questa sera grazie a delle formazioni mondiali che si rifanno o che hanno avuto la loro nascita così dire produttiva a Londra. E il Kavali, che è questo genere, questa forma di musica devozionale del nord dell'India, del Pakistan. Gaudi, tal Gaudi, che risiede o risiedeva a Londra, italiano, che forse alcuni di voi hanno visto alcune stagioni fa ad una puntata di un programma televisivo che non mi viene il nome, dove cantavano tutti. E insomma, un personaggio un po' eccentrico, molto appassionato di dub, ha remixato una canzone di uno dei più grandi del Kavali, di questa musica devozionale sufista dell'estremo oriente, Nusrat Fateh Ali Khan. Darkness, light persists. Questo insomma è il remix di Gaudi, del maestro della musica Cavalli, o comunque di colui che è stato conosciuto dal mondo intero della sua musica devozionale industana. E ci siamo lasciati la scorsa settimana con uno dei rami del sufismo nell'Africa occidentale, quello della musica Gnawa con Asnael Beccaria. Qui c'è un altro estremo, un'altra diramazione del Cavalli e di questo, come dire, di questo sistema settario, almeno all'inizio dell'Islam, un sistema conosciuto in tutto il mondo perché per magia a un certo punto la sua musica e i suoi principi si sono diffusi, si sono estesi tanto ai musulmani quanto ai non credenti. E in effetti oggi la musica sufi è una categoria estetica autonoma della world music, no? È proprio conosciuta come forma di popular music e questo ci fa solo che piacere naturalmente. Noi siamo giunti in fine di trasmissione, sono le 22 esatte, la cicogna nera finisce qui. Tra poco ai microfoni di Radio Onda Rossa arriveranno le sonorità di Noctibus Panis. Ci lasciamo con l'ultima canzone, un tradizionale vero senza nessun remix di Nusrat Fateh Ali Khan. Non so il titolo, purtroppo è contenuta in una compilation che ho preso all'Università di Bologna un po' di anni or sono. Ci sentiamo giovedì prossimo, ciao!